comincio a essere nervoso. Non è possibile che ogni persona che la vede poi ci prova. Che cazzo? È la mia ragazza, che cazzo rompete? Stai calmo, parla a voce bassa. No, non posso restare calmo. Ok, è una ragazza fantastica e sarà felice che tutti la guardano. Ma io non posso continuare per molto così ad avere l'ansia che qualcuno rompa più del dovuto. E poi cazzo, sono venuto a sapere che anche nella compagnia c'è qualcuno che spara cazzate a nastro. Ne ho davvero le palle piene.